Cos'è quest'estate? Di Elisabetta Fiorito. Dopo il decreto di indizione del presidente Mattarella, il governo dovrà fissare la data della consultazione entro il 70° giorno. L'ipotesi di fine novembre per chiudere prima la legge di stabilità e mettere in sicurezza i conti dello Stato è già in campo tra le polemiche delle opposizioni, tutte schierate sul fronte del no. Sinistra Italiana torna a chiedere al premier di concordare insieme il giorno della consultazione per un fatto di igiene democratica, dice Scotto. In un paese normale le regole del gioco si scrivono insieme. Questo è il servizio di Francesca Lagorio al TG3 ieri. 630 deputati eletti dai cittadini come oggi, unica a votare la fiducia al governo sarà la Camera dei Deputati, 100 senatori, 95 eletti dai consigli regionali, 5 nominati dal Capo dello Stato per 7 anni. Alcune materie tornano di competenza dello Stato: energia, infrastrutture strategiche, protezione civile. 730 grandi elettori, quorum minore per il referendum abrogativo se raccolto 800.000 firme, e poi abolizione del CNEL. Questi in linea di massima i quesiti del referendum sulle riforme costituzionali. Ne parliamo con Ettore Rosato, capogruppo PD alla Camera. Buongiorno. Buongiorno. Alfonso Raimo, giornalista dell'agenzia Dire. Buongiorno. Buongiorno. Subito ad Ettore Rosato chiediamo: c'è polemica per la data, come abbiamo sentito anche nel servizio del TG3, si parla di voto il 20, il 27 novembre, le opposizioni chiedono invece di votare subito. Perché tutto questo tempo per il governo per fissare questa data, onorevole Rosato? Ma intanto abbiamo avuto il via libera dalla Cassazione ieri, poi devono trascorrere i giorni necessari, 10, per verificare se ci sono ricorsi all'espressione della Corte, dopodiché il Consiglio dei Ministri ha 2 mesi per convocarsi e definire la data. A me sembra che ci sia l'interesse di tutti scegliere una data che favorisca la massima partecipazione e la massima informazione. Poi se c'è qualcuno che invece gradisce altre cose, lo dica in maniera esplicita. A me sembra che ci sia un partito del no, a prescindere, molto forte, che su qualsiasi cosa tenta la polemica per smontare le ragioni del sì, anche perché ragioni per votare contro questa riforma, a mio giudizio, sono veramente poche. Alfonso, invece l'impressione a Montecitorio qual è? Che il governo voglia ritardare per quale motivo? C'è un gioco, per così dire, sul calendario, no? Come sempre in politica i tempi sono quelli decisivi. Abbiamo assistito per mesi a una polemica che vedeva il governo intenzionato a convocare il referendum ai primi di ottobre e il fronte del no, per così dire, invece favorevole a far slittare la data per avere più tempo. Adesso invece i ruoli si sono ribaltati, è il governo che, secondo il retroscena, vedrebbe con favore una data piazzata intorno alla fine di novembre, si parla delle domeniche tra il 13, il 20 e il 27, e invece il fronte del no che vuole, per così dire, approfittare dell'effetto amministrativo e avere una data più anticipata possibile. E in questo gioco sul calendario si capisce che insomma sarà il prossimo un autunno abbastanza caldo dal punto di vista della polemica elettorale. 349-238-6666, il numero per gli sms, 800-24-0024 per intervenire. Ettore Rosato, si parla poi del merito, cioè sembra in atto da parte del governo e quindi da parte del suo presidente del Consiglio un gioco per cercare di una mancata personalizzazione del referendum, vale a dire prima Renzi ha giocato sulla personalizzazione, sul fatto che erano riforme fatte da lui, fatte dal suo ministro di fiducia Maria Elena Boschi, e il fronte del no era in crescita perché ovviamente antigovernativo, quindi diventava un referendum anche antigovernativo. Adesso invece si gioca sulla spersonalizzazione, è così? Guardi, prima che Renzi dicesse qualsiasi cosa sul referendum c'era già una conferenza stampa tra tutti i gruppi delle opposizioni, dalla sinistra passando per i 5 Stelle alla Lega e Forza Italia, nel dire questa è l'occasione buona per mandare a casa Renzi. Quindi la personalizzazione, diciamo, è una presa d'atto del fatto che per le opposizioni questo è un referendum sul governo più che sul merito. Noi invece però è stato lo stesso Renzi a dire se il referendum non passa io vado a casa. Ma lei se la vede una scena in cui dopo che il referendum non passa, io penso invece vinceranno i sì, e Renzi dice beh insomma non era una cosa tanto importante, io resto qui a fare un po' il Presidente del Consiglio, dopo che questa legislatura è nata per fare le riforme, dopo che questo Presidente del Consiglio è venuto in aula a dire che la legislatura aveva un senso se facevamo le riforme costituzionali e la legge elettorale. È stato il mandato che ci ha dato peraltro anche il presidente Napolitano quando ha accettato di essere ricandidato, quindi non abbiamo inventato niente, però oggi la nostra battaglia è sul merito, non sui destini personali di nessuno, e quindi il merito è quello che coinvolge, secondo me, la personalizzazione di tutti noi sul referendum. Una grande occasione, una battaglia del centrosinistra di 30 anni, quella di far finire il bicameralismo e ridurre i parlamentari. Oggi c'è l'occasione di arrivare fino in fondo. Ma è vero però nel Partito Democratico ci sono molti malumori, soprattutto da parte della minoranza Dem, e c'è il ministro Maria Elena Boschi che sta girando tutte le feste dell'unità per cercare di convincere la base? Guardi, la stiamo girando tutti le feste dell'unità e stiamo tutti cercando non di convincere la base, ma di dare un'informazione più capillare possibile sui contenuti dei referendum, sul contenuto della riforma, perché questo è necessario e a questi noi siamo chiamati. Poi il nostro partito ha questo grande difetto nell'epoca che viviamo di essere ancora un partito democratico, perché nonostante tutto siamo restati l'unico partito che ammette al suo interno anche una minoranza che ha una valutazione diversa sulle cose. I grillini li espellono, Forza Italia e PDL si è frantumata in mille pezzi. Ecco, noi continuiamo ad avere una voce plurale. Dopodiché io penso che la riforma costituzionale è stata votata da tutti ed è bene che tutti siano leali con quel voto che hanno dato nel rispetto dei nostri elettori e nel rispetto dei nostri militanti. Alfonso Raimo, giornalista dell'agenzia Dire, e il capogruppo del PD Ettore Rosato ci dà un quadro del Partito Democratico unito in queste riforme, o comunque che ci sono malumori, ma è un Partito Democratico, quindi si accettano varie correnti. In realtà come stanno le cose? In realtà, come sa bene il capogruppo Rosato, c'è un convitato di pietra, per così dire, in questa discussione che si chiama legge elettorale, si chiama Italicum. La minoranza del PD chiede la modifica dell'Italicum come condizione sostanzialmente per poter appoggiare il referendum. 10 parlamentari, alcuni senatori e pochi deputati, hanno già detto che invece voteranno no. Il grosso però della minoranza chiede un atto, una iniziativa prima del referendum sulla legge elettorale, in modo che, perché loro sostanzialmente contestano l'aggancio, il combinato disposto tra Italicum e riforme costituzionali, e quindi chiedono che si faccia un intervento prima del referendum in modo da poter sostanzialmente appoggiare a cuor leggero, tra virgolette, il quesito nell'urna quando sarà. E la legge elettorale è la vera discussione che si muove sotto traccia, questo è, come sa bene Rosato, è l'argomento vero. Dal punto di vista del governo, peraltro, non c'è stata una chiusura, cioè una disponibilità ad affrontare l'argomento se ci fosse una maggioranza. Questa è la condizione che pone il governo, cioè se si trova una maggioranza in Parlamento per la modifica della legge elettorale, dopo il referendum se ne può discutere. Il punto è quale maggioranza, perché se uno considera le posizioni di tutti i partiti, sostanzialmente tutti i partiti vogliono una modifica, ad eccezione della maggioranza del PD. Tutti i partiti vorrebbero una modifica dell'Italicum, ma è chiaro che dopo il referendum si capirà con quale maggioranza si fa quella modifica dell'Italicum, perché lo scenario che si apre è molto diverso a seconda che vinca il sì o che vinca il no. Ecco, vorrei avvisare i radioascoltatori che ci stanno scrivendo copiosi che poi ci sarà nella seconda parte anche chi parla per le ragioni del no, perché mi accusano che abbiamo dato spazio a Ettore Rosato, quindi è argomento che poi divide proprio gli italiani. Alcuni dicono, di radioascoltatori, perderanno sonoramente il referendum e la finta abolizione del Senato, dice Gianluca da Terni, con la vera abolizione condizione del voto popolare. Ecco, questo è quello che passa a Rosato. E il fronte del no dice anche che c'è molto caos in arrivo, un premier troppo forte, un centralismo troppo costoso. Che cosa risponde a queste critiche? Beh, tanto non è quello che passa, è quello che dice l'ascoltatore, è rispettabile. La fine del bicameralismo non è un'invenzione nostra, noi non abbiamo inventato niente, è scritto nei programmi del centro-sinistra e anche del centro-destra, tant'è che Forza Italia lo ha votato al Senato prima che noi scegliessimo Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Non abbiamo fatto nessuno sforzo di fantasia, e il fatto che ci sia un Senato composto e in rappresentanza dei consigli regionali è quello che succede in tutti gli altri paesi democratici, anche europei. Quindi è un sistema che garantisce la rappresentanza dei territori, molto più sobrio nel numero dei parlamentari, perché naturalmente questo noi li abbiamo ridotti di un terzo. I futuri senatori saranno già retribuiti dai consigli regionali e quindi non peseranno sulle casse dello Stato, ma il sistema sarà più rapido, più efficiente, perché il monocameralismo renderà più semplice fare le leggi e rispondere con tempi diversi a un'esigenza della società che è molto cambiata. Quindi io penso che noi su questo abbiamo fatto una cosa assolutamente in linea con la riflessione politica che emerge negli ultimi 30 anni di dibattito tra centrodestra e centrosinistra, in cui spesso la politica ha provato a cambiare e dopo non c'è mai riuscita, perché tagliare il numero dei parlamentari non è un'operazione facile. Lo abbiamo fatto, siamo arrivati fino in fondo, oggi dovranno decidere gli italiani. Ma cambierete la legge elettorale, perché questo poi è il problema anche all'interno della vostra minoranza. L'Italicum, ne farete per esempio una legge che premia il listone di coalizione piuttosto che la lista del partito? Guardi, il listone di coalizione si può già fare con l'Italicum, quindi il problema non si pone, però l'Italicum per noi è una buona legge, ma non è l'unica legge possibile. È stata la legge su cui abbiamo chiuso un accordo che ha consentito all'Italia di avere una legge elettorale, perché sembra che ci dimentichiamo quello che abbiamo vissuto. Ci siamo tenuti per 10 anni il Porcellum, considerato una legge pessima anche da chi l'ha scritta, senza che nessuno la cambiasse. C'è voluta la sentenza della Corte Costituzionale e il governo ha messo tutta la sua forza per arrivare a dare una legge elettorale a questo paese. Anche chi la critica oggi non è riuscita a cambiarla nel passato. Poi oggi ci sono gli elementi per farne una migliore, ben venga. Lo abbiamo detto, lo ribadiamo. Se c'è una maggioranza, e lavoreremo per costruirla, non è che stiamo lì a guardare cosa accade, però bisogna prendere anche atto delle cose. Il puntare con grande forza sul cambiamento della legge elettorale ha fatto irrigidire gli altri partiti delle opposizioni, naturalmente, prima tra tutti Forza Italia, che ha detto non se ne parla di cambiare la legge elettorale, ci vediamo dopo il referendum. Così come bisogna anche dire che di proposte per cambiare la legge elettorale ce ne sono talmente tante che naturalmente non consentono di avere i numeri sufficienti per approvarla. Però detto questo, noi siamo disponibili a ragionare, non in termini ricattatori ma in termini propositivi, con tutti, anche sul cambiamento della legge elettorale. Se c'è una maggioranza per farlo, lo faremo. Alfonso Raimo, giornalista dell'agenzia Dire, secondo te cosa succederà? Si andrà verso una legge elettorale dopo il referendum col premio di coalizione, scusami? Io credo che quello sia un esito abbastanza scontato, nel senso che se facciamo i due scenari, se vincesse il sì, si apre uno spazio per discutere la legge elettorale, perché la stessa riforma costituzionale prevede che bisogna scrivere la legge elettorale del nuovo Senato, cioè i consiglieri regionali, i sindaci che vanno a comporre il nuovo Senato dovranno essere eletti e bisogna scrivere una leggina elettorale. Chiaramente ci sarà lo spazio anche per discutere di modifica dell'Italicum, visto che sono settori importanti della maggioranza a chiederlo. Alfano, per dire, ha chiesto l'eliminazione del ballottaggio e il premio alla coalizione invece che alla lista. Se vincesse il no, cosa che credo, anzi sono sicuro Rosato non si augura, ci sarebbe una situazione ancora più scissa, perché avremmo l'Italicum, che è la legge elettorale della Camera, e al Senato è in vigore, per così dire, sarebbe in vigore per un Senato però pienamente eletto, quindi un Senato come Camera legislativa, avremmo in vigore il consultellum, cioè il porcellum modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale, che è un sistema elettorale del tutto diverso dall'Italicum. L'Italicum attribuisce un forte premio di maggioranza, il consultellum non lo attribuisce, ha delle soglie di sbarramento all'8 o al 20% che sono molto diverse dalle soglie di sbarramento al 3% dell'Italicum. Quello che cambia nei due scenari è, per usare una metafora, chi dà le carte, cioè nel caso che vinca il sì è chiaramente Renzi che dà le carte, questa maggioranza di governo che può naturalmente tener conto anche delle altre sensibilità extra maggioranza, ma sostanzialmente guida il gioco. Se invece vincesse il no si aprirebbe una dinamica del tutto diversa, perché lì l'impressione che gira è che ci sia anche un cambio di fase, cioè passiamo da un sistema politico che si è improntato sul maggioritarismo a un sistema politico che invece riflette sull'opportunità di tornare a forme di parlamentarizzazione proporzionalistica, cioè dove le maggioranze si possono comporre in Parlamento. Quindi insomma sarebbe interessante capire Renzi che cosa farà in questa seconda ipotesi. Glielo chiediamo al capogruppo PD Ettore Rosato e subito dopo la pubblicità. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Ma cos'è quest'estate? Chi darà le carte dopo il referendum? Come abbiamo sentito, Alfonso Raimo dice: se vince il sì le darà a Renzi, se vince il no magari le darà Alfano e Forza Italia. È così, Ettore Rosato, capogruppo PD alla Camera dei Deputati? Guardi, intanto io sono un ottimista e quindi penso che vincerà il sì, ma stando al gioco, se vince il no, Alfonso Raimo ha ragione su una cosa. C'è in testa di molti, e lo dimostrano le proposte di legge che sono depositate o che vanno avanti, un'idea che si torni a un sistema parlamentare in cui si torni al vecchio sistema del pentapartito, per dirla così, cioè maggioranze che nascono in Parlamento non legate all'esito elettorale perché nessuno ha vinto, ma legato al fatto che si sta tutti insieme. Ecco, io vedo questo scenario come uno scenario non utile al nostro paese. Dopodiché sul fatto che ci siano tre poli, ci saranno tre poli, ma non è detto che non ce ne possa essere uno che vince. Ecco, quindi io penso che questo è un motivo di divisione sull'idea della prossima legge elettorale. Penso anche che la campagna elettorale sul referendum oggi è sulla riforma costituzionale. Se si vuole continuare a deviare parlando del Jobs Act, parlando della legge elettorale, parlando di altro, io penso che si fa un torto all'intelligenza degli italiani che invece si devono esprimere sulla riforma costituzionale. Ma ci sono state delle pressioni da parte del Quirinale, quindi del Capo dello Stato Sergio Mattarella, sul fatto che la data dovesse essere tra il 20 e il 27 novembre per far approvare la legge di stabilità almeno in un ramo del Parlamento? Guardi, il Quirinale non fa pressioni. Quindi lei dice non abbiamo ricevuto, è stata una scelta nostra. Per te, Alfonso, ultima domanda al capogruppo PD che poi ci deve lasciare, com'è andata questa scelta della data? Glielo vuoi chiedere tu al Presidente? Forse a te ti risponde. No, io sì, sarei, cioè da qui a quando ci sarà il referendum, quale che sia la data, c'è anche un altro step, cioè la pronuncia o comunque l'inizio della discussione in Corte Costituzionale sull'Italicum. C'è un ricorso presentato al Tribunale di Messina, in Corte Costituzionale è fissato il 4 ottobre il dibattimento. Ora, quello che chiederei a Rosato è se anche in considerazione di questo appuntamento ci sarà, e del fatto che per esempio c'è una mozione calendarizzata a settembre presentata dalla sinistra italiana sulla legge elettorale, ci sarà uno spazio da qui al referendum, se non altro per impostare un ragionamento sulla legge elettorale, perché credo che forse, anche se il PD naturalmente difficilmente lo ammetterà, però avere una camera di compensazione, discussione sulla legge elettorale, può tornare utile anche per comporre un quadro politico a favore del referendum costituzionale. Cioè, molti sostanzialmente sotto traccia dicono che la posizione assunta da Forza Italia con Parisi qualche giorno fa non è di rottura tranchant e che, questo è un altro retroscena, Berlusconi aspetterebbe di capire se il PD è disposto a modificare la legge elettorale. Berlusconi è interessato ad avere il premio alla coalizione in modo da non dover andare per forza di cose in lista con Salvini. Nel caso in cui il PD aprisse sulla modifica della legge elettorale, allora si dice nei retroscena Mediaset, l'impero televisivo di Berlusconi, non farebbe fuoco e fiamme contro la riforma costituzionale. Ecco, la mia domanda è: ci sarà uno spazio prima del referendum per parlare di legge elettorale in Parlamento? Guardi, io sono affascinato di tutti questi retroscena, ci sono i fatti poi. Il fatto è che il PD ha dato la sua disponibilità a parlare di legge elettorale. Punto primo, che a rispondere per Forza Italia è stato Brunetta, che ha detto non si parla di legge elettorale fino a dopo il referendum. C'è una disponibilità di Forza Italia a discutere di legge elettorale, basta dirlo, non occorre sussurrarlo, noi siamo disponibili a discuterne. Però ne discuteremo nel momento in cui c'è una disponibilità, almeno di un pezzo delle opposizioni, a farlo trovando una legge elettorale che serva per migliorare l'Italicum, non per passare un sistema su un modello che non porta nessun vincitore. Detto questo, la data sul referendum non è stata definita e il percorso per definire la data è un percorso stabilito dalla legge, non è stabilito dalla discrezionalità assoluta del Premier, e quindi io penso che anche su questo è un dibattito veramente un po' strano, anche perché a chiederci di rinviare il più possibile il referendum, come ricordava giustamente lei, è stata proprio l'opposizione, per garantire una maggiore informazione. Quindi ascoltare questa richiesta e trovare un punto di mediazione, di equilibrio, che consenta di fare una serena campagna referendaria, a me sembra che sia nell'interesse di tutti. Ettore Rosato, però il fatto di non cambiare la legge elettorale prima del referendum è stato scelto perché sarebbe un boomerang, cioè anche un'apertura al cambiamento, perché allora gli italiani potrebbero dire: ma insomma, prima fanno una legge elettorale, poi fanno una riforma, poi ricambiamo la legge elettorale, non sono nemmeno loro convinti delle loro riforme? Vede, anche lei, continuiamo a fare una trasmissione che dovrebbe parlare della riforma costituzionale. Va bene, abbiamo parlato. Che cambia la carta costituzionale e continuiamo a parlare della legge elettorale. La legge elettorale è un'altra cosa, non c'entra niente con la riforma costituzionale, è la politica che le mette insieme, un pezzo del nostro partito legittimamente per una battaglia anche interna mette insieme la legge elettorale con la riforma costituzionale. Sulla modifica ipotetica della legge elettorale ho detto c'è la nostra disponibilità, le priorità degli italiani però francamente sono più contenute all'interno della legge di stabilità che nella legge elettorale, e noi penso che dovremmo trovare il tempo per fare questo e per fare anche il resto. Se fare passi indietro, passi avanti sulla legge elettorale dà un segnale di apertura o dà un segnale di debolezza, io non lo so. Quello che so è che cambiare l'Italicum si può fare solo ed unicamente se serve per migliorarlo. Ringraziamo allora il capogruppo del PD Ettore Rosato. Insomma, Alfonso, la situazione è ancora vedo nebulosa, però ti fermo un attimo perché abbiamo in linea con noi Riccardo Nuti, deputato del Movimento 5 Stelle alla Camera e è anche membro della Commissione Affari Costituzionali, quindi la prima commissione che si occupa proprio del cambiamento delle leggi dello Stato. Ovviamente voi siete schierati per il fronte del no, per quale motivo? Buongiorno a tutti. Beh, intanto perché il no mi sembra abbastanza evidente su questa riforma costituzionale, basta vedere chi la sta facendo, stiamo parlando di Renzi, Boschi e Verdini, e già questo è un segnale che bisogna subito votare no. Ma poi aggiungere che si regala l'immunità ai nuovi senatori, ovvero coloro che attualmente sono consiglieri regionali che diventeranno nuovi senatori, avranno in regalo l'immunità parlamentare da questa riforma costituzionale, che crea solo confusione e non elimina privilegi, anzi ne regala di nuovi, come appunto questa dell'immunità. Voi del Movimento 5 Stelle però siete un po' additati perché diventate un po' il partito del no, non volete cambiare la Costituzione, cioè qual è il vostro concetto? Va bene il bicameralismo paritario? Come vorreste cambiare la seconda parte, quindi l'ordinamento dello Stato? Guardi, intanto precisiamo una cosa, noi volevamo aggiornare la Costituzione, certo, non con queste persone che stanno tentando di stravolgerla. Faccio degli esempi di modifiche della Costituzione che erano possibili e che sono stati bocciati. Noi abbiamo proposto per esempio l'abolizione del vitalizio, visto che si dice sempre che non si possono abolire perché va inserito in Costituzione, e hanno votato contro questa nostra proposta. Abbiamo proposto la diminuzione degli stipendi dei parlamentari e anche lì hanno detto di no. Abbiamo proposto il dimezzamento di tutti i parlamentari, quindi sia di Camera che di Senato, e hanno votato no. Quindi, come dire, non siamo del no, proponiamo le cose, sono casomai gli altri che dicono no alle nostre proposte. Detto questo, la discussione sul bicameralismo perfetto o meno è assolutamente inutile, perché abbiamo visto in questi anni che avendo Camera e Senato, quindi il sistema del bicameralismo perfetto, se c'è la volontà politica si possono approvare delle leggi in 10 giorni. Ricordiamo per esempio quelle Lodolfano e la legge Fornero, che sono state approvate comunque nel giro di poche settimane. La verità è che il Parlamento, se vuole, può approvare leggi velocemente, così come invece molte altre leggi vengono insabbiate sempre per una questione di volontà politica. Ricordiamo non ultima la legge sulla prescrizione, che vede tanti processi andare al macero proprio perché c'è questa prescrizione, e nonostante le tante dichiarazioni in questi anni in TV e in radio, alla fine ancora non vede la luce una legge decente. 349-238-6666, il numero per i vostri sms. Alfonso Raimo, insomma, questa è la teoria del Movimento 5 Stelle. Il bicameralismo paritario va bene così, se ho ben capito, onorevole Nuti, magari potremmo dare una sforbiciata a senatori e deputati. Questa era la vostra richiesta, no? Si può... Che cosa manca, secondo te, Alfonso, nella visione di riforma del Movimento 5 Stelle? Io devo dire che in questo frangente, da questo punto di vista, mi faccio, come dire, amplificatore dei dubbi che serpeggiano nel fronte del no rispetto ai 5 Stelle, perché i 5 Stelle sono anche loro parte importantissima, tra l'altro, di questa compagine che è contraria alle riforme costituzionali. Ma quello che si è notato, lo ha fatto tra gli altri Quagliariello, ma anche ad altri all'interno del Comitato per il No, è che in questa fase i 5 Stelle hanno mancato, come dire, di convinzione. L'altro ieri c'è stata l'iniziativa di Alessandro Di Battista, che ha inaugurato questo Costituzione Coast to Coast, un tour per spiegare le ragioni dei 5 Stelle al no al referendum. Però poi, per esempio, molti hanno lamentato il fatto che quando c'è stato da raccogliere le firme per competere con il comitato del sì e quindi chiedere il referendum in Corte di Cassazione anche dal fronte del no, i 5 Stelle sono mancati. Il comitato del no ha preso 316.000 firme, molte meno delle 580.000 del comitato del sì. E qualcuno ha notato che il leader, per così dire, in pectore, cioè Luigi Di Maio, non si sia speso in prima persona in questa fase. Quello che gira, glielo dico a Nuti perché l'avrà sentito anche lui, insomma, e che sostanzialmente i 5 Stelle vogliono capire che fine fa l'Italicum. Essendo l'Italicum un sistema elettorale che prevede il ballottaggio, e se è vero come è vero che i 5 Stelle sono una forza politica che riesce a coalizzare al secondo turno anche il voto del centrodestra, lo ha dimostrato alle amministrative dove si è votato col secondo turno, hanno vinto dappertutto, tranne che ad Alpignano, un piccolo comune della provincia di Torino. Se è vero questo, cioè... E io quello che volevo chiedere è vero che i 5 Stelle aspettano di capire che fine fa l'Italicum, cioè la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum, per mettere anima e corpo nella campagna per il no al referendum? Riccardo Nuti, a lei la risposta. Beh, noi stiamo mettendo anima e corpo, infatti c'è per esempio un tour di Alessandro Di Battista che fa oltre 4.000 chilometri in tantissime spiagge d'Italia dal 7 di agosto al 7 di settembre, quindi non mi sembra che non ci sia impegno. Se parliamo del periodo della raccolta firme, noi non abbiamo raccolto noi le firme, ma abbiamo aiutato il comitato del no, ma forse ci si scorda che noi siamo stati impegnati in delle amministrative molto importanti, quindi le energie sono quelle che sono e ovviamente abbiamo dedicato la maggior parte del nostro tempo e delle nostre energie, delle amministrative che abbiamo avuto per esempio a Roma, a Torino e in tante altre città. Ma dal punto di vista dell'informare i cittadini, visto che spesso la TV pubblica non lo fa, sul merito delle riforme e cosa comportano queste riforme costituzionali e perché è importante votare no, penso che il nostro impegno sia massimo. Non attendiamo l'Italicum perché questi giochetti che vengono fatti dalla politica non ci interessano, lo abbiamo sempre detto, l'Italicum è una legge pessima che non va modificata ma va abolita ed è impressionante pensare che i partiti discutano ancora di queste cose, come alcuni del PD che dicono votiamo sì se cambiate l'Italicum, che votiamo sì se c'è il premio di coalizione, cioè questi sono giochetti sempre mirati alla poltrona e questi per noi sono inaccettabili. Ancora di più è inaccettabile pensare che si voglia modificare l'Italicum per andare contro il Movimento 5 Stelle, cioè non si può pensare di modificare la legge elettorale per andare contro un soggetto politico. Però era stata scritta un po' per arginarvi, no? Perché all'inizio si pensava che avrebbe favorito magari il centrodestra e il centrosinistra e il ballottaggio si immaginava diversamente tra centrodestra e centrosinistra. Poi voi siete cresciuti in questi anni e quindi è stato proprio un boomerang. Esatto, sì, è stato detto chiaramente da un esponente del governo, ora non mi ricordo come si chiamava l'esponente del governo, che lo disse chiaramente che questa legge elettorale è stata scritta contro il Movimento 5 Stelle. La verità è che se negli anni si scrive una legge elettorale per andare contro un movimento politico come il nostro, poi gli elettori capiscono questo e addirittura gli scenari cambiano e il loro aspetto ridicolo è quello di pensare che prima ci dicono il racconto in TV che la legge elettorale che hanno fatto è bellissima e poco fa sentiamo dire dal PD che ora la possono modificare dopo che qualche mese fa ci hanno detto che era stupenda, era perfetta questa legge elettorale. Cioè, non si possono fare legge elettorale per andare contro un movimento politico e i cittadini questo lo capiscono, infatti nel tempo le cose cambiano e loro stessi poi hanno paura del Movimento 5 Stelle e tentano di rimediare costantemente su questa cosa. A questo punto scrivessero dentro che nella legge elettorale il Movimento 5 Stelle non si può candidare ed eviteremmo un po' di ipocrisia. Ecco, onorevole Nuti, prima di salutarlo, vogliamo capire quali sono le proposte del Movimento 5 Stelle. Voi volete un proporzionale puro? Noi abbiamo detto di eliminare le multicandidature perché non è possibile che una persona si presenta in Sicilia come a Bologna e come nel Lazio, la stessa persona e poi sceglie la poltrona che più conviene. Abbiamo detto che un sistema proporzionale può andare bene se c'è un sistema di calcolo che magari dà un piccolo premio, ma un piccolo, non un abnorme premio come il Porcello, un piccolo premio ai partiti che prendono la maggior parte dei voti, garantendo però la rappresentanza a tutti i cittadini. Quindi un piccolo premio di maggioranza, non un proporzionale puro che Giolitti avversava perché per parere del grande statista poi preparò la strada al fascismo, ecco, non un proporzionale puro ma un proporzionale con un piccolo premio di maggioranza, giusto? Noi abbiamo già presentato una proposta di legge che chiamiamo Democratellum, che abbiamo scritto tramite la rete con tutti i cittadini, che abbiamo depositato tempo fa, abbiamo anche provato a discuterla in quei famosi tavoli di confronto con Renzi, però la risposta che abbiamo avuto su tutti gli aspetti è sempre stata no. Quindi è chiaro che non c'è neanche la volontà di fare una legge elettorale per i cittadini, ma farla solo contro il Movimento 5 Stelle. Ok, un'altra cosa è che cosa volete fare con le riforme costituzionali? Perché ricordiamo che ci sono due rami, la legge elettorale è una legge che si riforma con una votazione ordinaria, cioè il 50% più uno, invece ci sono le riforme costituzionali che hanno bisogno di una maggioranza qualificata, dei due terzi e poi c'è bisogno di una doppia votazione, hanno una procedura aggravata, si dice. Che cosa volete fare? Come vorreste cambiare in due parole la Costituzione, cioè il funzionamento dello Stato? Va bene il bicameralismo ma con meno deputati e meno senatori? Rendere la Costituzione semplicemente un po' più moderna, quindi dimezzare il numero dei parlamentari, eliminare i vitalizi, tagliare la parte degli stipendi evidentemente esuberante in questo momento storico, dopodiché quindi rendere più facile la possibilità di referendum propositivi e proposte di legge di iniziativa popolare da parte dei cittadini, cosa che attualmente con questa riforma non c'è. La ringrazio allora, onorevole Riccardo Nuti, deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Istituzionali della Camera, e diamo il benvenuto invece a Luisa Bossa, deputato PD alla Camera, che fa parte di quella minoranza, possiamo dire la minoranza Dem, che vorrebbe cambiare l'Italicum. È così, onorevole? Beh, intanto buongiorno, io vorrei dire subito all'onorevole che mi ha preceduto che noi 10 che abbiamo firmato il no al referendum non siamo quelli che legano il loro no alla riforma della legge elettorale. Quindi lei dice no tu cura alle riforme? No, noi diciamo no intanto perché è vero che la nostra è una posizione in dissenso da quella deliberata al PD, ma è anche vero che noi in qualche maniera sappiamo che il partito ha uno statuto di carattere liberale e quindi non dà vincolo disciplinare, perché sono in gioco principi, sono in gioco cose, un impianto costituzionale, quindi non è legato al fattore adesso lo cancelliamo perché le 5 Stelle ci hanno superato, è un discorso come dire abbastanza modesto, come pure i vitalizi, non mi pare che sia di grande respiro costituzionale, ecco, è un discorso come dire per fare un po' di audience, per fare un po' di propaganda, ma non c'è niente di veramente importante. Sì, onorevole, onorevole Boss. Sono le cose che loro dicono sempre. Sì, sì, ma voi perché della minoranza PD dite di no alle riforme costituzionali? Perché è lo stesso vostro partito che le ha fatte. Perfetto. Innanzitutto noi sappiamo che c'è esigenza di riforma del bicameralismo, va bene? Quindi noi non diciamo che non c'è questa esigenza, lo diciamo. No, perché è dal 1948 però, che c'è questa esigenza, ecco. Sì, però il problema non è che noi ad ogni piesso spinto andiamo a mettere mano alle riforme costituzionali. In nessun paese, prenda gli Stati Uniti o altro, sono le costituzioni che hanno, poi sta al congresso in quel caso, ma al Parlamento nel nostro caso, come dire, interpretarle, applicarle, farle diventare sangue, cuore, diciamo, di chi le deve seguire, insomma. Noi a ogni piezzo spinto perché andiamo dite no? A mettere le mani. Allora diciamo noi innanzitutto perché noi siamo perché era meglio eliminare il Senato. Ah, tu cuore, oppure via. Sì, oppure si poteva specializzare il Senato come Camera di alta legislazione, priva di fiducia, ma come dire capace di produrre codici al fine di assicurare la chiarezza delle norme. È un bicameralismo, come dire, in cui abbiamo recuperato un ceto politico regionale. Walter Tocci parla di dopolavoro del ceto politico regionale, ha ragione, senza un indirizzo politico, diciamo. È un'assemblea che ha potere ma è povera di autorità e quindi non ci convince questa riforma del Senato, diciamo. Poi la crisi, sì, prego. No, no, perché abbiamo in linea Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera, che è stato senatore anche. Buongiorno Antonio, ci scusiamo perché è in treno, quindi si sentirà un po' disturbata la linea. Abbiamo sentito la deputata Luisa Bossa. Tu che sei stato senatore, questa riforma ti convince con un Senato dei consiglieri regionali e dei sindaci oppure no? Ma guarda, la riforma ha certamente dei punti positivi che sono soprattutto quello di diciamo ridurre a una le camere che danno la fiducia al governo, no? Questa è una cosa che esiste in quasi tutte le democrazie occidentali, è una cosa saggia, è una cosa che rende anche il processo legislativo e politico semplice. È fatta però attraverso l'abolizione del Senato o la trasformazione del Senato in una Camera delle Regioni, cosa che sarebbe stata più logica, ma lasciando al Senato la funzione di una Camera politica, perché in realtà chi andrà al Senato, i consiglieri regionali che comporranno il Senato, saranno espressione dei partiti, diciamo, perché selezionati sulla base dei voti che i partiti hanno preso nella regione e non espressione della regione come per esempio nel sistema tedesco. Questo è un fatto certamente discutibile e soprattutto aggravato dal fatto che poi non si è ancora Ecco, ti stiamo un po' perdendo perché purtroppo la linea è così, da una parte sapevamo che eri in treno. Alfonso Raimo, ti ha convinto Luisa Boss, deputato della minoranza Dem? Io volevo chiedere all'onorevole Bossa, mi ricordo che prima delle amministrative, lei adesso ha preso questa posizione, diciamo, molto netta sul referendum costituzionale, perché non era scontato che qualcuno all'interno del gruppo del PD prendesse la posizione del no ufficialmente. Ricordo che però l'onorevole Bossa, prima delle amministrative, aveva detto pubblicamente che non riconosceva più il PD come il suo partito, e che dopo quell'appuntamento legato, insomma, ci furono anche molte polemiche sul PD napoletano, non è il caso di ricordare, dopo l'appuntamento dell'amministrativa avrebbe deciso se restare o meno nel PD. Adesso volevo chiederle, se posso, Elisabetta, se ha preso una decisione in questo senso, cioè anche rispetto al fatto che si è schierata per il no, cioè Luisa Bossa resterà nel PD o vede sempre più il PD come un partito estraneo al suo percorso politico? Prego, onorevole Bossa. È una bella domanda. Sì, è sempre più estraneo al mio percorso politico, perché che vinca il sì o il no è una revisione costituzionale senza futuro. Non può durare nel tempo, perché non è frutto di un'intesa. Anzi, secondo me, abbiamo sentito i 5 Stelle, alimenta la discordia. E quindi diciamo che ho aspettato ancora, sto aspettando ancora qualcosa, ma l'idea di uscire fuori da questo PD mi solletica. Quindi andrà con Dattore Civati? No, non è detto. Vediamo cosa succede. Tra poco avremo questa riforma. Certo, se dovesse vincere il sì, a quel punto ci sarà veramente pochissimo spazio per noi, quasi nulla. Antonio Polito, se no, allora si riaprono gli scenari. Se dovesse... Antonio Polito, vice direttore del Corriere, insomma, c'è una diaspora, queste riforme hanno falcidiato il Partito Democratico? Ma insomma, il processo di allontanamento di una parte dei deputati, dei parlamentari del PD dalla direzione renziana era già in corso, era già, diciamo, si era concentrato prima su altre questioni, ma certamente la riforma del Senato crea una nuova frattura, soprattutto i 10 parlamentari che hanno dichiarato per il no, di votare per il no, e vedremo poi anche cosa succederà in seguito da questo punto di vista. Diciamo che è un fenomeno, secondo me, se posso essere esplicito senza essere come dire eccessivamente brutale, è un fenomeno che riguarda per il momento ancora più il ceto politico, nel senso che abbiamo visto il PD certamente perdere voti, soprattutto alle amministrative, ma più che altro verso una forma di astensione, di apatia del suo elettorato per la parte che è critica del gruppo dirigente renziano. Quindi non so se questa difficoltà possa essere recuperata elettoralmente oppure no. Cioè, voglio dire che le varie piccole mini scissioni che ci sono state finora non hanno prodotto la nascita di un soggetto alternativo di sinistra al PD, alla sua sinistra, ecco. Sì, ecco, l'impressione è che poi quando escono, cioè Civati, Dattore, che galvanizzavano anche la scena politica, poi finiscano un po' nel dimenticatoio, è così, Antonio? Ma va bene, questo, diciamo, è un aspetto più mediatico che attiene alla loro visibilità, insomma, io penso che se uno non è d'accordo con la linea di un partito, piuttosto che star dentro pur di avere visibilità e un seggio e uno scranno da parlamentare, fa bene ad andarsene. Che poi abbia una proposta politica capace di costruire un movimento, un partito reale, consistente, alternativo a quello da cui è uscito, è tutto da dimostrare. Finora nessuno l'ha dimostrato. C'è spazio a sinistra? Si parlava anche di un partito magari con Landini? Ma finora abbiamo avuto molte prove che no, che non c'è. Cosa curiosa, perché poi invece in giro per l'Europa dei movimenti di sinistra più radicale che si oppongono alle sinistre tradizionali riformiste sono nati e hanno anche avuto un successo elettorale. Secondo me la spiegazione sta nel fatto che anche qui ci troviamo di fronte a qualcosa che l'elettorato percepisce più come un movimento di ceto politico, nel senso che si tratta di personalità, di personaggi che già fanno politica da tempo, che sono noti, che difficilmente vengono interpretati come i potenziali rappresentanti di un nuovo, di una fase nuova. Non è nato, ecco, neanche a sinistra ancora un personaggio che abbia questa capacità. Landini per un momento passa a averla, ma poi si è abbastanza inabissato, credo anche un po' per scelta sua. Ecco. Quindi manca ancora qualcuno che a sinistra possa trascinare movimento di dissidenti verso Matteo Renzi. Ringrazio Alfonso Raimo, giornalista dell'agenzia Dire, Ettore Rosato, capogruppo PD alla Camera dei Deputati, Riccardo Nuti, deputato Movimento 5 Stelle, Luisa Bossa, deputato PD alla Camera, Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera. Tra poco. Ma cos'è quest'estate? Come dimenticare Erpiotta, che cantò questa canzone molto divertente, Super Cafone. Chi è il Super Cafone? Perché in un articolo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, ma anche in alcuni articoli di Maria Corbi, inviata e giornalista della Stampa che abbiamo con noi in questa prima parte della nostra seconda ora, si parla proprio dell'estate cafona del lusso ostentato. Vale a dire, sui social media si ostenta, si con spavalderia la propria ricchezza. Un caso su tutti è quello di Gianluca Vacchi, l'imprenditore tutto tatuato che ovviamente fa mostra di sé ma anche del suo jet privato. Non solo, abbiamo avuto anche il rapper Fedez che ha detto che ha comprato un super attico a Milano, le vacanze estive di Paolo Bonolis che ha messo in circolazione alcune foto in cui la moglie e il marito conduttore vanno su un jet privato in vacanza a Formentera. Maria Corbi, va di moda ostentare il lusso in questo momento di crisi? Buongiorno a tutti. Ma guarda, ostentare il lusso va sempre di moda, è sempre andato di moda, anche perché è un modo, come dire, per così un antidoto alle proprie debolezze. Io devo dire che, vedendo dall'altra parte, a me l'estate in questo sfoggio cafonal mi diverte moltissimo, perché diventa come un romanzo, è un romanzo abbastanza pop, come dire, della nostra società. Grasso ha criticato molto, anche in maniera così scherzosa, ma insomma in maniera seria, questa invasione sui social di sfoggio, di ricchezza, di... Io su quello ho un'idea diversa, nel senso che penso che i social siano social dove noi veicoliamo la nostra vita, quindi se uno va col jet privato, se uno si è fatto l'attico e lo vuole mettere, credo che insomma sia meno ipocrita far vedere che nascondere. Poi quello che tu mi dici invece, appunto, di Vacchi e di altri imprenditori, ma anche di gente comune che posta foto da vere o false da luoghi incredibili, quello credo, se a me mi fa abbastanza tenerezza, no? È una debolezza che del genere umano, cioè il fatto di dire vabbè, almeno sui social la mia vita splende, magari poi nella vita normale la vita è molto più triste, più grigia, meno ricca da tutti i punti di vista. Quindi ti dico, a me mi diverte molto questa estate, un po' da novella 2000 sui social. Sì, ma poi Gianluca Vacchi doveva fare questa festa per i 40 anni, quelli per i 49 anni, molto ambita a Ibiza, poi in realtà non c'è andato quasi nessuno di quelli che contano, o sbaglio, Maria? Insomma, è stata un po' una delusione. Beh sì, che contano in che senso? Perché gli amici di Vacchi che contano, ora appunto che contano uno, due, tre, contano tra di loro, perché... Voglio dire, stiamo sempre parlando, voglio dire, di un mondo molto, come dire, estetico ed esteriore, di un mondo da tabloid così del terzo tipo, di tabloid di gossip, no? Poi voglio dire, se noi parliamo veramente di mondo che conta e di vita che conta, è altrove, dalle pagine patinate, e il vero lusso non è certo quello che ci stanno facendo nell'aereo privato di Bonolis, nell'attico di Fedez, nella festa di Vacchi. Ecco, queste sono, come dire, delle manifestazioni abbastanza puerili di una di un modo di vivere e di ritenere che l'agio e che alcuni status symbol possano, come dire, rendere felici. A volte rendono felici, certamente in un'estate farsi una bella vacanza con un aereo privato può non rendere felici così per qualche ora. Senti, Johanna Sanz pure ha trovato casa a Torino e quindi ha fatto questa foto bellissima in cui lei mostra questo fisico perfetto dal di dietro con la piscina e vista sulla città. Quindi va proprio di moda ostentare un po'. Laura Della Ragione, psichiatra e direttrice del Centro Pubblico per i Disturbi Alimentari di Todi, ha scritto insieme a Marta Scoppetta Giganti d'Argilla. Se l'identità dell'uomo in passato si costruiva attraverso il lavoro, in un momento di crisi si punta tutto sul corpo. Questo è un po' il caso estremo di Gianluca Vacchi, Laura Dalla Ragione? Ma sì, assolutamente sì. E tra l'altro questa ossessione sul corpo scolpito, meraviglioso, senza difetti, che prima era patrimonio delle donne, oggi anche appartiene agli uomini, tant'è che anche i corpi degli uomini sono levigati, depilati, quindi c'è un cambiamento importante anche in ciò che per un uomo, ma soprattutto c'è un'ossessione che accomuna uomini e donne, che è quella del corpo perfetto, che ha spiegato, che spiega poi tutta la diffusione non solo dei disturbi alimentari, ma soprattutto della chirurgia estetica, ad esempio, di quest'idea che il corpo si possa, non si debba trasformare. Aggiungo due cose anche su questa ostentazione di cui parlavate, cioè io credo che ci sia una crisi del desiderio, cioè le persone per desiderare qualcosa devono vedere oggetti, comportamenti, status symbol di altri. Non c'è più una possibilità, una capacità, soprattutto nei giovani, di desiderare qualcosa di proprio. È una sorta di intossicazione del desiderio e da questo punto di vista i social sono ovviamente la fanno da padroni. La fanno da padrone, no, perché sentiamo un po' male, quindi la interrompo per ripristinare la linea in modo migliore. Marta Cagnola, giornalista di costume di Radio 24, tu segui questi fenomeni per noi nelle tue varie trasmissioni. Che impressione ti sei fatta quest'anno, quest'estate, peggiore di quelle passate? Ciao Elisabetta, allora mi stavo giusto facendo un selfie sul mio divano, perché quando hai detto il selfie di quella con il fisico perfetto, volevo farmi anch'io un selfie con la mia camicia da notte di Hello Kitty qua sul mio divano per farvi vedere che anch'io mi... Devo dire che quest'anno in più rispetto agli anni scorsi c'è il boom di Instagram. Già l'anno scorso, ma quest'anno in particolare, Instagram, Snapchat sono questi social che si basano sull'immagine e quindi quello che emerge è solo la foto, e la foto può dire tutto e può non dire niente. Emblematico è il caso della famosa foto scattata da Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, a bordo dell'aereo privato. Lei poi si è giustificata, anche malamente, e qui c'è un'altra considerazione da fare, dicendo: siete invidiosi, l'aereo era solo noleggiato, non è solo il mio aereo. Certo è che una foto, soprattutto in un periodo storico in cui si grida ogni giorno alla casta, può voler dire tante cose. Per quanto riguarda, appunto, ti dicevo, un'altra considerazione che si può fare è che tanti di questi VIP non utilizzano una figura professionale che, viva Dio, c'è, usiamola, ed è quella del social media manager, cioè quello che gestisce i social network. Cosa succede? Nel momento in cui c'è una polemica, non rispondere di getto, perché la risposta, come nel caso di Sonia Bruganelli, ahi noi, può peggiorare le cose, perché la sua risposta è stata: italiani invidiosi, voi vi fate al massimo le foto da poveracci in Piazza Duomo. Ecco, lì ha purtroppo, sull'onda della rabbia che così prende tutti di fronte a una critica, risposto in maniera un po' inappropriata. Se lo facciamo noi che non siamo nessuno non succede niente, se lo fa lei che è, insomma, un po' importante, si scatena ancora di più la polemica. Maria Corbi, c'è questa visione anche del vecchio imprenditore che era un po' low profile, magari arrivava in azienda con una macchina di poco superiore a quella dei suoi operai, proprio per evitare questi contrasti sociali. Oramai si è andati oltre, bisogna andare col Maserati? Ma questo, guarda, è una cosa che c'è dagli anni Ottanta, voglio dire, poi c'è sempre stata, no? C'è sempre stato l'imprenditore illuminato, l'imprenditore cafone, questo è, voglio dire, l'imprenditore... La polemica dei nuovo rich. C'è sempre stato, no? Il nuovo ricco, che deve mostrare i soldi, deve farli vedere, invece, come dire, il soldo antico, più nobile, eccetera. Però, vabbè, questa è un'altra distinzione. Io però, tornando sui social, sentendo prima della Bruganelli, io penso che i social siano un veicolo della nostra vita, perché questo è, se no diventano dei romanzi, e spesso lo sono. E quindi quando uno si posta la propria vita, che è su un aereo privato, io sinceramente su questo non ho nessun tipo di così di retropensiero. Penso che sia giusto, poi tutti possono criticare, certamente la Bruganelli ha sbagliato a rispondere così, però a me non dà fastidio l'ostentazione del lusso vero. A me quello che mi fa sorridere spesso sui social è comunque l'ostentazione di un lusso desiderato e che non esiste. Il fatto di più che l'aereo privato, il fatto di dover dire faccio un festone, ecco, proprio quello show un po' anni Ottanta, la ricchezza che supera invece i miei limiti, ecco, quello è una cosa che mi dà fastidio, tra virgolette, nel senso poi che anche quello mi fa sorridere, perché sui social alla fine poi quando uno li guarda si diverte, e secondo me i social devono rimanere un veicolo sia di divertimento ma anche di verità, perché se poi la Bruganelli non può postare la sua vita normale, ecco, mi sembra assurdo. Insomma, c'è un'ostentazione, ma c'è anche l'ostentazione di qualcosa che si dipinge sul corpo. Non hai mai pensato a un tatuaggetto? La tua amica sfoggia un tatuaggetto. Corri, corri a farti un tatuaggetto. Ricordo che la prima volta che ho sentito questa canzone me la mise un mio amico e io cominciai a ridere fino alle lacrime, perché la seconda parte è sul tatuaggetto, la prima parte è sulle scarpe, che è sempre un po' un problema per noi donne. Pietro Romano, tatuatore. Lei ha tatuato anche dei VIP, poi vediamo se ce lo dice lei, e poi è fuggito da Milano ed è andato ad Ischia. Perché? Salve a tutti, dunque io a Ischia ci avevo già abitato un pochino, usandola come, diciamola così, piazzola di sosta, cioè abitava mia mamma, io giravo per il mondo tatuando e tornavo a Ischia ogni tanto a riposare, diciamo così, e a tatuare qua sull'isola. Sono stato invitato, ho tatuato da 16 anni, insomma sono uno di quei un pochino, non tra i vecchissimi tatuatori, ma neanche tra i più giovani, e sono stato invitato a Milano, come spesso accade ultimamente negli ultimi anni, a fare guest artist in giro, e dopo 5 anni a Milano... È fuggito? Non fuggito, me ne sono andato perché... diciamo non era l'ambiente che faceva più adatto a me, forse sono più adatto ad ambienti, io ho vissuto a New York, a Londra, ad Amsterdam, eccetera. In Italia diciamo che forse proprio il discorso dell'ostentazione del tatuaggio, sia da parte del pubblico sia da parte del mondo dei tatuatori stesso, era troppo diverso a quello a cui io ero abituato, cioè io ero abituato a un mondo molto più normale, se vuoi, cioè più legato al tatuaggio di per sé, ma senza tutta l'ostentazione che ci può stare alle spalle, ecco. Ma lei ha tatuato anche Fedez? No, l'ha tatuato Marco, il ragazzo con cui ho lavorato per anni. Ho tatuato un Tabi del Milan, ho tatuato un po' di modelli, tra cui Marcaccini per la Diesel, un po' di altri. Quali sono i tatuaggi più richiesti dai VIPs? Bello con la... noi sfruttiamo un po', Oggi, in verità oggi come oggi non è tanto più quello che viene richiesto come, come soggetto, ma come tatuatore. C'è anche il VIP come la gente del popolo normale. Molti oggi come oggi, con l'incremento della cultura sui nomi, sugli stili eccetera eccetera, fanno un pochino più di ricerca, quindi si ritrova o il cliente già preparato che viene, che sa che cosa vuole anche in casi più particolari, oppure il VIP che molte volte non sa assolutamente che cosa vuole, ma vuole essere tatuato da quella persona lì perché in quel momento va di moda. Cioè anche il tatuatore diventa un VIP, ecco, questo è quello che ci sta dicendo. Anche sì, diventa VIP, diventa parte integrante proprio di una società che a Milano io onestamente forse non ero idoneo. Diventa un pochino una rockstar, cioè dai tempi di Miami Inc. del 2007, quando finimmo tutti quanti in televisione con il nostro lavoro, passammo da essere un lavoro di nicchia, un lavoro di underground, comunque non era un lavoro, cioè mi ricordo quando ero piccolo iniziavo, ti chiedevano che lavoro fai, dicevi il tatuatore non era un lavoro. Adesso invece è un lavoro a pieno titolo, in tanti casi non è neanche più necessario tatuare perché basta magari farsi prendere delle foto, rilasciare articoli, interviste eccetera eccetera, quindi diciamo che anche il tatuatore passa un pochino più a essere VIP piuttosto che essere quello che eravamo 10-15 anni fa, ecco. E quindi a Ischia che fa? Tatuaggi di pesci e di... No. Continuo a fare le mie cose, continuo a fare macchie d'inchiostro. No, continuo a fare macchie d'inchiostro anche perché sono abbastanza conosciuto per lo stile che faccio e bene o male almeno la soddisfazione di potermi muovere e continuare a fare quello che è il mio stile, il mio linguaggio artistico, almeno me lo porto dietro. Diciamo anzi forse a Ischia e a Napoli c'è, in certi casi ho notato, più apertura che in molti posti come Milano e Londra, dove alla fine vogliono in tanti quello che vedono e non quello che vogliono veramente, non quello che vorrebbero. Lei Ischia si sente più libero. Laura Dalla Ragione, psichiatra e direttrice del Centro Pubblico per i Disturbi Alimentari, ma studia il corpo e tutte le connessioni mentali sul corpo. Abbiamo sentito questo tatuatore. Perché una persona sceglie di farsi un tatuaggio, soprattutto un uomo? Ma perché il corpo degli uomini è cambiato ed è diventato anch'esso un teatro esibitivo di disagio e di felicità, insomma in ambedue i modi, quindi il corpo per l'uomo è diventato, come per la donna, un modo per esprimere le proprie idee, le proprie emozioni. I tatuaggi sono un fenomeno nuovo che però ovviamente rappresenta molto bene quest'istanza di apparire, di esprimere sul proprio corpo, che diventa proprio un teatro esso stesso. Per gli uomini poi c'è questo corpo statuario, levigato, depilato, che quindi assume proprio, diventa una specie di tela dove dipingere i tatuaggi, ma anche i piercing, ma anche tutta una serie di altri segnali che prima erano appunto una nicchia, oggi sono un fenomeno di massa. David Beckham ha fatto da apripista Marta Cagnola, è così? Tu, oltre la camicia da notte di Hello Kitty sul tuo divano mentre sei in ferie, l'ho postata. Hai per caso un tatuaggio, niente, Marta? Niente. Ne ho neanche uno, perché ho il terrore delle cose definitive e quindi sono coerente, non me ne faccio uno pensando che prima o poi lo toglierò. Non ne ho neanche uno. No, c'è poi questa preoccupazione, Maria Corbi, quando ci si lascia per esempio con il ragazzo e si aveva scritto il nome del proprio fidanzato sul polso magari, poi diventa un po' difficile, bisogna sempre ricorrere ad un altro tatuaggio e questo ma è il problema. Immaginatevi Fedez a 65 anni, con le bombe, tutta quella pelle cadente, io li detesto, sono in grave lutto perché mio figlio di 17 anni, senza il mio permesso, anzi nonostante le mie minacce, se ne è fatto uno sulla coscia per cercare di blandirmi, ha inserito le mie iniziali nel tatuaggio, ma insomma io non l'ho neanche voluto vedere, lo trovo una cosa veramente, io li detesto, penso che siano una cosa tribale, un ritorno indietro e mettersi, sono d'accordo, un segno definitivo sul corpo, alterare sia una cosa veramente che denota un non un disturbo mentale ovviamente perché è troppo, però sicuramente una grandissima insicurezza e una grandissima indecisione nonostante poi il segno sia definitivo e quindi si cerca come dire di emergere anche attraverso come dire il proprio corpo. In fondo questo culto del corpo che c'è oggi, che sicuramente è giusto da un punto di vista della salute anche, è anche estetico, però quando è eccessivo è anche quello un grande segnale di insicurezza interiore, no? Di non stare bene con se stessi perché non c'è un altro motivo, no? Io il tatuaggio proprio eliminerei per legge. Per legge. Vietati tatuaggi. Vietati tatuaggi. Pietro Romano, con Marta Cagnola e Maria Corbi, lei non farebbe una lira, come si dice in gergo. Sì, infatti stavo dicendo spererei di no. Spererei. Non sono in totale disaccordo con quello che entrambe hanno detto. Apparentemente sembrerei un pessimo venditore di me stesso. Però in effetti ci sono delle ragioni, dei punti di ragione, cioè che come ho sentito il primo intervento c'è oggi sicuramente un'ostentazione del corpo che è sbagliata, che psicologicamente a livello di massa, proprio a livello di psicopatologia di massa, completamente errata. Cioè io trovo quasi ridicolo dal punto di vista estetico, veramente più l'uomo che la donna, dove mi ritrovo i ragazzi depilati dalla testa ai piedi eccetera, quando dici senti non fai né lo sportivo né ne hai necessità, ma diventa soltanto veramente un culto di per se stessi di per emergere. E questo, come dice la signora, per quanto sia assolutamente contro i tatuaggi, diventa comunque simbolo di insicurezza. Ma magari è l'ostentazione, no? Troppi tatuaggi, basta uno, due. Io per esempio uno ce l'ho, ve lo dico. Non è neanche quello, perché ad esempio io faccio tatuaggi molto grandi, quindi è impossibile dire hai uno o due tatuaggi. Io ti posso dire c'hai una manica, hai due schiena, una schiena fatta delle due, proprio per le dimensioni dei tatuaggi che faccio. Però in effetti è vero, c'è una parte di insicurezza totale nei confronti del cliente che viene per farsi magari un lavoro enorme e man mano conoscendoli, passando ore insieme col cliente, ti rendi conto che certe volte non, cioè come dire che 10 anni fa non sarebbe mai entrato in un tattoo studio, oppure se entra in un tattoo studio rimane quella persona che lo fa per una sorta di base di insicurezza con se stesso, per cui non piacendosi o non accettandosi o volendo essere diverso da quello che lo circonda, perché c'è una ricerca di autoindividualismo maniacale oggi come oggi, lo si vede in tutto, lo si vede in moda, lo si vede nello spettacolo, lo si vede che porta in effetti a vedere il tatuaggio a livello di massa come una cosa che piuttosto che diventare una ricerca personale, individuale di un segno che lo fa riconoscere ed è valido solo per la persona, in verità diventa uno specchio per la società esterna. Guardatemi. Insomma, tatuaggi sì, ma con moderazione. C'è un radioascoltatore che ci dice che poi invece è un peccato mortale no, insomma è un peccato sancito dalla Bibbia non dipingersi il corpo. Noi diamo la linea alla pubblicità per ritrovarci subito dopo. Ma cos'è quest'estate? Amo quel bastardo che mi ha lasciato qua a soffrire la fame in questa assurda libertà, ma io lo perdono, non sa quello che fa, l'uomo che abbandona, l'uomo senza umanità. Lei mi dà del cibo, mi dice vieni qua, da dietro al finestrino vedo tutta la città. Dove stiamo andando? Non capisco, ma sto scodinzolando, sembra la felicità. Dobbiamo partire, facciamo i bagagli, ma dove lasciamo Fido e Kitty? Insomma, dove lasciamo il nostro cane, il nostro gatto, il nostro migliore amico? Purtroppo certe volte non lo lasciamo da nessuna parte, ma lo abbandoniamo. E questa è una delle piaghe delle estati italiane. Ne parliamo con, ovviamente, i nostri conduttori top, Rosita Celentano e Angelo Vaira, in questa seconda parte, l'abbandono degli animali in estate. Rosita, perché le persone si prendono un cane, un gatto e poi dopo, quando devono partire, se ne dimenticano? Ma è perché purtroppo lo prendono con superficialità, perché lo prendono per fare un regalo a un figlio come se fosse un giocattolo, oppure lo prendono come gadget perché fa figo andare in giro col cane, cagnolino, perché è di moda, e quindi la stessa è già la motivazione di partenza che è sbagliata, che non si considera che si sta prendendo non un oggetto, ecco il cane, non so se sì, lo sentiamo. Tu quanti animali hai? 20.000 tipo? No, esatto. Io ne ho avuti tanti, ne sono transitati tanti in casa mia, perché io fin da piccola avevo proprio un'attrazione nel portare a casa e salvare qualunque specie animale. Però conscia del fatto che fossero anime, cioè fossero esseri viventi, quindi totalmente consci di dovermi prendere cura di loro, che avessero, provassero delle emozioni, dolore, allegria, paura, tensione, tutte cose che fanno parte anche dell'aspetto emotivo degli esseri umani. Quindi tu hai detto bisogna prendere un cane, però bisogna capire che è cioè un essere spirituale e fisico, e quindi non bisogna pensare che sia un giocattolo. Carla Ronchi, presidente dell'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Quanti animali vengono abbandonati d'estate? Ci sono delle statistiche, ed è vero che gli animali vengono abbandonati più d'estate che d'inverno? Ma in realtà le statistiche ci danno un dato confortante, che rispetto agli anni passati c'è una linea di tendenza in decrescita. Rispetto all'anno scorso i dati ci dicono che siamo sotto di tra il 17 e il 20%, nessuno conta i cani uno per uno, sarebbe una sciocchezza e nessuno potrebbe dare dei dati esatti, però i dati si prendono dagli ingressi nei canili. Quando ci sono meno ingressi vuol dire che ci sono meno abbandoni, e questa è una tendenza ormai consolidata, perché il nostro paese cresce di sensibilità, cresce di intelligenza ed è, stranamente potrebbe sembrare, uno dei paesi più avanzati al mondo per legislazione sugli animali e per sintonia con gli animali. Angelo Vaira, una domanda scomoda per te, che ricordiamo che insieme a Rosita Celentano conduci Chiedimi se sono felice proprio qui su Radio 24. C'è la sensazione, per chi non ama gli animali, che alle volte si proteggono troppo gli animali, magari i cani vanno in giro senza museruole e sono aggressivi e quindi mordono le persone, oppure le persone hanno paura anche dei cani e quindi il padrone del cane non lo capisce. Il cane sporca, però qui possiamo aprire un grandissimo discorso, che il problema non è il cane ma è il padrone. Ecco, come se ne esce in questa lotta tra animalisti, fautori del benessere degli animali, e magari chi non ha un animal feeling? Ecco. Beh, la situazione è molto più complessa, nel senso che tra gli animalisti c'è chi non ragiona, e chi per l'amore degli animali nutre anche nei confronti degli esseri umani una sorta di, non dico odio, però insomma è più a favore degli animali, e poi ce ne sono quelli, e sono la maggior parte, di animalisti che invece sono molto intelligenti e sanno che per far amare gli animali bisogna anche rispettare la gente, quindi i marciapiedi puliti, quando il cane fa i propri bisogni per terra bisogna raccoglierli, si occupano di progetti di pet therapy, mostrano il cane per quello che è, insomma. Ecco, sì, no? Ti sentiamo un po' confuso, quindi ritorniamo un attimo su Rosita. Rosita, tu hai mai litigato per esempio con qualche tua amica che aveva paura dei cani e ti diceva, per cortesia, se vengo a casa tua potresti chiuderli? No, a me personalmente non è mai capitato, però mi è capitato di andare a casa di altre persone, sì, che non li sapevano gestire. Ma lì torniamo a quello che stava dicendo adesso Angelo. Cioè non bisogna generalizzare prima di tutto, e poi bisogna veramente sapere anche che cane si prende. Ogni razza ha un'attitudine diversa da un'altra, se uno ha dei bambini certi cani non vanno bene, se una persona anziana uguale, se si è in famiglia si fa una determinata vita, bisogna capire che tipo di cane prende. Cioè non è che si ordina un chilo di mele e anche lì volendo poi uno le deve scegliere quelle non troppo mature, nemmeno troppo acerbe. Di base comunque bisogna sempre usare la testa. Quindi insomma, Angelo, se mi permetti, volevo dire una cosa prima sull'adozione, che è molto importante. L'ha toccato Rosita, ma approfondendo significa questo: quando una persona adotta un cane, per assicurarsi di fare una bella vita con questo cane, sia lui, cioè non avere problemi, sia far vivere felice il cane, la domanda che si deve porre è: cosa posso fare io per questo animale? Non cosa posso ricavarne, che è anche una bella cosa, verrà anche dopo, però la prima domanda è: ma io perché sto andando ad adottare un animale? La prima cosa è: voglio donare una vita degna, un'alta qualità della vita a questo essere. Allora, se c'è questo, io posso adottare un animale. Se invece lo prendo soltanto perché sto seguendo una moda, perché mio figlio me l'ha chiesto, perché è arrivato Natale, perché mi gira in quel momento di avere il gatto dagli occhi blu, è ovvio che poi quando cambieranno le condizioni io me ne disferò facilmente, così come accade a volte. Tipo si lasciano i fidanzati e mollano i cani nei canili, nasce il bambino e adesso devo stare dietro al bambino, quindi mollo il cane nel canile, e lì non ho imparato nulla, né io come persona, né do la possibilità a mio figlio di imparare qualcosa. Tu che sei un esperto, hai scritto molti libri, Rosita prima ci ha accennato, ci sono delle razze che non vanno bene, per esempio se si hanno dei bambini, quali sono queste razze da evitare? Non sono da evitare, sono piuttosto delle razze che ti pongono con maggiore cautela, cioè io ho visto le razze che pitbull. Normalmente, per esempio il pitbull, il rottweiler, non sono delle razze consigliatissime per i bambini, però è anche vero che ho conosciuto molte persone che hanno questi cani a casa, hanno i bambini e fanno una vita felicissima, quindi il punto è quante competenze hai, quanto grado di responsabilità tu puoi avere piuttosto che la razza. Certo, se una persona è inesperta, poco tempo, via dicendo, io gli consiglierei un Cavalier King Charles Spaniel, un Labrador con un bambino che è molto tollerante piuttosto che una di queste razze, però dobbiamo ricordarci che i bambini crescono bene assieme ai cani quando i genitori gli insegnano ai bambini a rispettare i bisogni degli animali, è in questo modo che si incrementa l'intelligenza sociale secondo gli studi, cioè mi accorgo io bambino che lì dentro c'è una mente pensante con dei bisogni, delle emozioni, quindi devo coinvolgerlo, devo saperlo coinvolgere, a volte devo lasciarlo anche lì in pace perché non ha voglia di giocare, non vuole essere infastidito. Dottoressa Jessica degli Innocenti, psicologa esperta di relazione uomo-animali, si contesta molto spesso agli animalisti, c'è stato un tweet mi sembra dell'onorevole Gasparri, che il cane deve essere cane e molto spesso invece per i padroni dei cani il cane diventa alla stregua di un essere umano, cioè c'è questa distinzione? Intanto buongiorno a tutti, mi permetto di dare il buongiorno anch'io. Ma sì, in realtà è un po' così, è una domanda che mi viene posta frequentemente, un po' perché appunto occupandomi di animali e di umani insieme, che vivono insieme e hanno poi delle relazioni sociali e non, è una delle prime domande che mi viene posto. E devo dire che in realtà faccio sempre questo paragone, la nostra specie, che è una specie animale, ha negli anni comunque codificato dei comportamenti per prendersi cura di. Quindi la nostra genetica ci porta a comportarsi in un certo modo quando abbiamo davanti un essere animato che è in una condizione di bisogno, che sia un bambino o che sia un cane, la nostra specie ha un pattern di comportamenti che è codificato per prendersene cura. Quindi è vero e non è vero, nel senso è vero che noi comunque mettiamo in atto dei comportamenti che sono del tutto simili a quelli che ci fanno prendere cura dei nostri cuccioli umani. Sì, ma io sento gente che dice vieni da mamma al cane, ha capito? Quindi è un po'... Ma questo è un maternage, lo facciamo tutti, dice, è un modo... Non dobbiamo modo preoccuparci, cioè se io sento una mia amica che dice vieni da mamma al cane o al gatto, devo stare tranquilla. No, perché mi preoccuperei di altro, bisognerebbe poi vedere cosa c'è dietro a quel vieni da mamma, ma questo lo farei anche se lo dicesse a suo figlio e poi avesse comportamenti scompensanti, quindi questo è un po' uguale per tutti. La cosa secondo me importante è capire che ogni essere vivente, un po' come diceva Angelo, e mi capita molto spesso di trovarmi in linea con il suo pensiero, in realtà è quello che tu hai investito in questa relazione, indipendentemente da poi dall'etichetta che gli diamo, che quella c'è, non c'è, non è poi così importante, ma quanto tu ci hai investito, quanto tu riconosci la diversità di questo essere, che sia un cane, un gatto, ma anche un bambino. Ogni figlio è diverso, ogni figlio... Sì, sì, però vedo che c'è sempre un paragone cani e bambini. Rosita, tu quanti animali hai a casa? Adesso tre. Tre. E che cos'hai? Tutti i cani? Un cane, un gatto, un canarino? No, sono tre cani. Ah, tre cani. Tu non sei una gattara, diciamo, preferisci più, perché poi anche... No, lo sono stata. Io non faccio molta distinzione. Cioè, il cane vive molto con me perché interagisce molto di me, è un animale che interagisce molto più facilmente con l'uomo. Però io ho portato a casa paperi, ho portato a casa cincilla perché per evitare che ci facessero le pellicce, ho liberato visoni, ho salvato due scoiattoli rossi 3 anni fa, per un anno mettevo la sveglia ogni 2 ore i primi 3 mesi per dare da mangiare gli antibiotici perché stavano morendo, finché poi dopo li abbiamo rimessi in natura, gatti ho avuto, in realtà tutto quello che io vedo, quando riconosco negli occhi, indipendentemente dai cani che ho adesso, però non è che mi soffermo, se riconosco negli occhi un animale che ha bisogno, mi viene proprio distinto ad aiutarlo, ma come se dovessi vedere un bambino o un anziano che ha bisogno, perché questa, come diceva Angelo prima, le persone sane non fanno distinzione fra aiuto agli animali e non gli esseri umani, oppure come mi dicono, con tutti i bambini, la gente che soffre, tutti preoccupi dei cani, è una stronzata questa cosa qua, perché se tu hai un animo caritatevole che sente il bisogno dell'altro, lo senti indipendentemente dalla specie. Carla Ronchi, presidente EMPA, vengono abbandonati più i cani, i gatti, i cani sono quelli che vengono abbandonati di più? Ma che senso ha una domanda di questo tipo? No, ma perché vengono abbandonati tutti quelli che si trovano ad incontrare un imbecille sulla loro strada. E quindi questo dato dipende non dal numero degli animali, ma dal numero degli imbecilli. Quanto è alto questo numero? Molto alto, però in decrescita, o perlomeno forse gli imbecilli. Ci può dare le cifre? Le cifre non ci sono, chiunque dia cifre, dice cose, secondo circa. Voi a questo momento di agosto qualcuno ha contato gli animali abbandonati? No. Allora chi spara cifre spara cose. Cosa succede a un animale quando viene abbandonato? Viene messo in un canile? Succede quello che succede a chiunque di noi quando viene abbandonato. No, voglio sapere a livello tecnico, mi scusi. Viene questo randaggio, viene preso, portato in un canile, eventualmente poi abbattuto, non abbattuto, succede? Abbattuto non se ne parla perché è dal 91 che non si abbattono, grazie a Dio, e solo in Italia gli animali randaggi. Questo è una cosa che ormai ha 25 anni di storia dietro le spalle. Ecco. Se siamo fortunati che viviamo in una città civile, l'animale rinvenuto così per la strada senza cosiddetto padrone viene portato in un rifugio. Se siamo invece in una parte incivile del nostro paese, e ce n'è ancora un bel pezzo, l'animale rimane sulla strada e fa una fine disperata, infelicissima, che condanna alla vergogna chi l'ha abbandonato e anche le persone che gli passano accanto non guardandolo, non soffermandosi, condanna proprio alla vergogna un paese che ancora sopporta in metà del suo territorio una cosa vergognosa e avvilente come il randagismo. Ma dirò di più, che questo tipo di disagio, di vergogna, sale fino ai piani alti, perché per esempio sentivo prima che voi citavate un parlamentare che diceva un cane, cos'è, un cane è un cane, e anche un Gasparri è un Gasparri. Sì, vabbè, lui diceva, io amo gli animali, però io tratto il cane da cane, mentre magari l'essere umano lo tratto da mio simile, no? Perché poi siamo animali tutti quanti, cioè lui dava una sua opinione, non è che aveva detto io odio gli animali. Gli dico niente, gli dico che lui è lui. Cosa significa trattare un cane da cane? Significa essere, come posso dire, accorti nei comportamenti, ma le persone che amiamo, gli animali che amiamo, gli esseri che amiamo, le creature che amiamo, le trattiamo con amore. Certo che io trovo che non sia amore quelli che gli mettono tutti i fiocchetti in testa, quella è una forma di scemenza, però questa cosa per cui esista un amore di serie A e un amore di serie B, non lo capisco. Io la metto molto in difficoltà. Guarda, io penso una cosa, che quando io vedo facciamo quadretto, signore anziano al parco con cagnolino vicino che gli scodinzola, meticcetto, che gli scodinzola due esistenze felici a modo loro e completate, cambio di flash, cena al ristorante, una coppia, due persone che cenano tutta la sera senza rivolgersi una parola, dove sta l'amore? Dove sta la vicinanza? Dove sì, però lì si può dire che è un rapporto subalterno quello lì tra padrone e cane. Attenzione, stiamo scivolando su delle cose che poi non sono. Angelo Vaira, ci sono dei limiti o non ci sono dei limiti? Perché ovviamente il rapporto tra padrone e cane è un rapporto che ha una subalternità, mentre tra due esseri umani c'è una parità. No, non è così. Non è affatto ovvio, perché questo è un pensiero antropocentrico. Cioè, in filosofia oggi c'è un grosso dibattito su questa cosa. Sono antropocentrica. Sì, è una forma di antropocentrismo, cioè considerare l'uomo come l'essere superiore agli altri è una forma di antropocentrismo, purtroppo non ci permette di percepire bene la realtà delle cose, ed è quello che poi porta alla distruzione dell'ambiente, e sono le stesse logiche che poi ci portano a chi hanno creato il patriarcato, che creano le gerarchie di forza e la schiavitù e via dicendo, no? Quindi oggi gli animali per esempio sono tenuti in schiavitù per molti versi. Allora quello che noi dobbiamo cercare di capire è che siamo diversi, non con un valore differente, sebbene a volte se io devo proteggere un appartenente alla mia stessa specie è ovvio che devo prendere delle misure, quindi lì dovrò fare una scelta, ma devo chiedermi se è necessario. Insomma, ci sono varie, è molto vasto, noi dobbiamo dare la linea al traffico. Ma cos'è quest'estate? I cuccioli, i cuccioli! Oh, stanno nascendo! Oh. Quanti? 8! 8? Per Giove Pongo, 8 figli! 10! 11! E noi continuiamo a parlare. Vi ricordate questo bellissimo film, La carica dei 101, con Crudelia De Mon, che era veramente crudele, e soprattutto con loro due che si incontrano e si innamorano perché entrambi proprietari di due dalmata. Allora, in vacanza si può andare con i cani, e quindi abbiamo sentito i nostri amici animalisti che assolutamente non bisogna abbandonare, e per capire che cosa succede a questi animali d'estate e per far sì che questi animali non entrino in un canile, noi andiamo vicino a Fregene, a Maccarese, e quindi in provincia di Roma, a due passi da Roma, c'è stato un po' di confusione perché i cani sono ospitati su più strutture in Italia. Andiamo ad Asolo Dog Resort e parliamo con Christian, che ha escogitato una pensione per cani. Buongiorno Christian, che cosa succede? Voi arrivano i possessori di animali e hanno la camera da letto e magari la cuccia del cane? Assolutamente. E abbiamo creato questa struttura io e mia moglie qui sulle colline Asolane, sulla nostra abitazione, partendo dal pensiero di dove lasciare i cani se andassimo in ferie, e quindi la necessità di lasciare i nostri cani che vivono con noi durante tutto l'anno in abitazione, quindi fanno una vita normale, e poi magari vengono portati in strutture completamente diverse dalla loro abitudine. Invece abbiamo ricreato la stessa cosa, quindi noi abbiamo creato un'area in cui i cani ospiti vivono con i nostri, vivono con noi 24 ore al giorno, 24 ore su 24. Christian, quanto costa di più di una vacanza normale? Perché poi alla fine anche un proprietario di un cane che già deve vaccinarlo, già deve nutrirlo, insomma ci sono dei costi per chi tiene un animale. Allora, fare una vacanza per esempio ad Asolo Dog Resort, quanto costa rispetto a un albergo normale dove si va senza cani? Guardi, io le dico un po', le nostre tariffe variano dai 30 ai 40 euro al giorno a seconda poi delle varie situazioni, dimensione cane, cibo e altre cose. Voi però date anche ciotole, cibo? Sì, tutto quanto. 30-40 euro per il cane oppure per la coppia il cane? 30-40 euro per solo, il cane. Solo per il cane. Quindi insomma, Rosita, per possedere un animale andarci in vacanza bisogna essere ricchi? No, non necessariamente, perché anzi la maggior parte delle persone che poi tratta bene il cane sono persone modeste, quindi dipende. Io per esempio intanto ho imparato, da quando conosco Angelo, che ho conosciuto una rete di persone, di professionisti che mi hanno insegnato anche a condividere il pasto con i cani. Io per esempio non compro il mangiare industriale, anche di dubbia qualità, anche se ce ne sono alcuni migliori, ma faccio come facevo da piccola, perché io oramai ho 51 anni, ricordo quando avevo 12-13 anni che raccattavo i randagini per strada, gli davamo i nostri avanzi, e quindi non va sprecato niente, possono mangiare le stesse cose nostre, ovvio. Quindi lei non fa la raccolta, tu non fai la raccolta dell'umido a casa, ecco perché. Esatto, cerco di non sprecare. Quindi voglio dire, in realtà si possono fare anche le vacanze con i cani, perché oggi, grazie a Dio, come diceva la presidente dell'EMPA, che è un bel dato il fatto che ci sia una diminuzione nell'abbandono, vuol dire che ci sono anche strutture che ti permettono di andare in vacanza col cane. La Toscana è aperta totalmente, le spiagge sono tutte accessibili ai cani. va poi anche al singolo come si dice proprietario di stabilimento decidersi se no, però ci sono ristoranti, ci sono spiagge, ci sono tutto, ci sono ospedali adesso che fanno fare la pet therapy, quando ci sono persone malate li fanno venire a trovare dai loro cani, supermercati, gli alberghi, ci sono alberghi dove io mi è capitato di andare negli ultimi oramai 10 anni, c'è il menù per il cane, si può ordinare al ristorante la pappa per il cane, se tu hai un cane lo dici prima, ti fa trovare le ciotole con la cuccia, cioè grazie a Dio ci si sta sensibilizzando in questo. Poi c'è chi lo fa anche solamente per business, ma l'importante è che comunque si possa convivere con l'animale domestico in un modo civile per tutti. Ringraziamo allora Rosita Celentano e Angelo Vaira, Chiedetemi se sono felice, la loro trasmissione sugli animali su Radio 24, e ci sono molti sms, provo una grande vicinanza al tuo antropocentrismo, dice un radioascoltatori, e ci sono, siamo in balia di fondamentalisti, dicono alcune, altri, insomma c'è stato chi lascia il cane tutto il giorno in terrazzo e questo abbaia per ore, può essere multato, Jessica degli Innocenti, perché qui il problema sono anche i padroni. Allora ci sono i cani che abbaiano, i cani che mordono, perché non è che tutti i cani sono buoni, carini, insomma cosa fare in questi casi, perché bisogna anche proteggere gli esseri umani. Assolutamente, per forza. Alle volte c'è questa cosa, c'è questa immagine che siamo arrivati a una società dove il cane ha più diritti dell'essere umano, bisogna avere tutti quanti gli stessi diritti, però insomma poi anche tutelarsi dai morsi, no? Quello per forza è logico, cioè uno stato di diritto deve tutelare tutti, quindi è logico che si deve essere tutelati noi umani, e devono essere tutelati anche chi il cane non lo vuole, chi non lo vuole accanto in ombrellone, per qualsiasi motivo. Io non giudico, io ho un cane, ma non posso giudicare chi non vuole un cane vicino, questo è logico. Sul fatto che si tuteli più il cane e non gli umani, insomma, bisognerebbe poi andare a vedere la legislazione, perché non è proprio così. Detto questo, bisogna educare i proprietari. Che molto spesso, e volentieri chi ha un cane pensa di avere il diritto di avere un cane, in realtà non è così, nel senso, come dicevo prima, in uno stato di diritto ognuno deve avere la propria libertà, anche quella di non volere, per dire, non lo so, al supermercato il cane, perché o no? Non amare gli animali, perché ci o può essere questa animali, libertà, certo. Allora noi ci colleghiamo con Patrizia Bau Beach, Maccarese, Roma, insomma Maccarese, Fregene. Perché vi è venuta in mente di fare una spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe? Sì, buongiorno a tutti. Allora, proprio per creare quel diritto, nel senso che è vero che ognuno non ha il dovere, diciamo, anche se verrebbe naturale, in un'ottica, diciamo, di empatia e relazione, diciamo, universale con gli altri esseri viventi, amare anche questi esseri che comunque sia hanno nei nostri confronti un atteggiamento di devozione quasi, no? Per cui diciamo che è il cane proprio in maniera ancestrale il compagno dell'uomo. Però al di là di questo, che chiaramente la civiltà metropolitana ha confuso un po' le cose nel corso dei secoli, per cui si è creata una legislazione, naturalmente si è creata una legislazione che in qualche modo condiziona la nostra vita insieme agli altri esseri viventi, e condiziona naturalmente anche la vita degli altri esseri viventi. E questo, ma da voi chi vengono? Vengono le persone solo con cani? Quanto costa, allora, l'entrata? Noi, cioè il lettino per il cane? Sapere qualcosa, sì. Di più, diciamo, io ero entrata nel... No, lei è entrata in un discorso filosofico in cui noi sappiamo che il cane, sì, no, ha accompagnato l'uomo dall'alba battute dell'umanità. Però sì, ecco, sì, quello che volevamo capire, che io vengo da Roma, allora, ho un cane, vengo a Bau Beach, che cosa mi offrite, che cosa offrite al mio cane? Allora, noi offriamo al cane la possibilità di fare il cane, prima di tutto, perché tutto quello che è stato finora pensato per il cane purtroppo è molto a misura d'uomo, e noi ci possiamo fregiare di questa sorta di unicità, nel senso che purtroppo dico, perché a me farebbe molto piacere avere altre situazioni, diciamo, analoghe, tra virgolette, similari, ma purtroppo non ce ne sono. Da noi ci sono delle condizioni di obbligo, in questo caso, di non tenere il cane al guinzaglio, di non tenere il cane alla museruola, e quindi di farlo giocare, fargli fare il bagno se vuole, fargli fare dei giochi se vuole, anche qui diamo veramente la libertà al cane di fare esattamente quello che vuole, per cui se vuole dormire tutto il giorno sotto un ombrellino lo può fare, perché noi diamo in dotazione tutto un kit molto preciso con anche diverse tipologie, diciamo, di ombreggiamento, per cui ombrellini, tane, ciotole per acqua di tutte le dimensioni, pappa per tutte le tipologie di cane. Ci sono anche delle possibilità di fare delle attività con il cane o senza cane, nel senso che diamo la libertà assolutamente a tutti di fare quello che si vuol fare, chiaramente nel rispetto reciproco, per cui diamo le bustine per raccogliere le deiezioni, facciamo noi stessi delle disinfestazioni e disinfettazioni a livello settimanale proprio della Ma mi chiedono dalla regia, c'è anche il bagnino salva cane? No, c'è il bagnino che ha un cane, nuotano. Il quale si sta preparando ad essere anche lui stesso bagnino. Il dog bagnino, il bagnino dog. Senta, ma mi scusi, per i cani abbiamo anche pensato questo, che ci sono alcuni cani, brachicefali in particolare, che hanno delle problematiche di respirazione, ahimè, create purtroppo dalla selezione umana. Tipo i boxer? No. Box, ma no, più che altro i carlini, i bulldog francesi, questi cani che sono tra l'altro stati perfezionati, tra virgolette, negli ultimi tempi, che purtroppo invece di essere perfetti hanno delle grandissime difficoltà respiratorie. E quindi noi forniamo dei giubbetti salvagente per ogni tipologia di grandezza. Quanto costa tutto questo? Io vengo da lei con tutto un cane. Costa. Allora, 5 euro. 5 euro al giorno l'ingresso del cane che è stato comprato. E 4 euro invece se è stato adottato, perché cerchiamo di premiare quelli che andare a comprare il cane, quindi che però sono un po' aggressivi i cani adottati, perché Di chi l'ha detta questa cosa? No, guarda, parlo per esperienza personale questa volta, perché se non vengono educati sono un pochino aggressivi, se e sono stati in... sono più buoni secondo me. No, allora se sono stati in un canile e poi non c'è stato un percorso possono essere più aggressivi, perché hanno subito. Guardi, noi ne abbiamo fatti adottare due nel corso dell'ultimo weekend, due cani erano giovani effettivamente, per cui non avevano avuto la brutta esperienza di anni e anni di canile, ma erano cani dolcissimi e insomma, già socializzati. E è ovvio che se un cane magari di indole aggressiva, nel senso intendo dire anche di razza o di derivazione, diciamo, mettiamo un derivato per esempio di un dogo argentino che sta dentro una gabbia per 15 anni, è chiaro che non credo che sia un cane molto socievole. Insomma. Ecco, insomma, io non mi sentirei così al sicuro. L'ultima domanda flash, 5 euro per il cane, ma quanto paga la persona? La persona paga unicamente 11 euro la prima volta che viene per fare una tessera associativa che è anche polizza assicurativa ed è obbligatoria per tutte le associazioni. Christian, lei quindi mi ha detto 30 euro al giorno per il cane e quanto invece per le persone? No, noi ospitiamo solo cani. Per chi va in vacanza, quindi voi fate questo e non si lascia più, è una pensione per cani. Abbiamo liberi senza gabbie. Senza gabbie, ma non litigano tra di loro, no? Perché i cani devono fare una prova, vengono qui. Fanno una prova. Però guardi, i rapporti fra gli animali, di quello che abbiamo potuto vedere questi 3 anni qua. La devo salutare. La devo salutare, grazie. Linea al GR.